Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Buongiorno, era Berlusconi quello al telefono, si sente poco ma era Berlusconi al telefono in una telefonata trasmessa ieri sera a Piazza Pulita in cui Berlusconi imputa al presidente Napolitano, l'avete sentito, di essere intervenuto sull'entità del lodo Mondadori. Questa è stata la durissima e immediata risposta del Quirinale. La leggo testualmente. Quel che sarebbe stato riferito al senatore Berlusconi circa le vicende della sentenza sul lodo Mondadori è semplicemente un'altra delirante invenzione volgarmente diffamatoria nei confronti del capo dello Stato. Uno scontro dunque che ha raggiunto davvero un punto altissimo. Ma quello che attraverso le valutazioni sulla magistratura ha fatto di Berlusconi un uomo progressivamente sempre più solo contro tutti è un problema che viene da lontano. Senta, lei dunque dice sono un perseguitato, però lei è anche l'unico candidato premier della storia non solo indagato ma rinviato a giudizio. Ecco, non è un po' troppo comunque per un futuro premier? Beh, capovolgiamo il ragionamento. Io sono indagato e rinviato a giudizio perché sono il candidato premier, il leader di una coalizione che rappresenta almeno metà del paese, che ha impedito con la sua discesa in campo che le sinistre potessero mettere le mani sul potere. Ecco, questo era un Berlusconi dannato, un Berlusconi del 96. La giustizia è nella sostanza il leitmotiv irrisolto per lui, per la sua vita personale, che come ho detto prima ha raggiunto il conflitto più duro ieri col Quirinale. Questo dopo che il premier Letta, a che tempo che fa, con Fabio Fazio, domenica aveva detto. Le chiedo se tra questi punti potrebbe anche esserci la questione giustizia in qualche modo. Ma guardi, questa è una storia che a me fa sempre sorridere, come se parlare di giustizia vuol dire parlare di Berlusconi. Questo governo, tra le cose che abbiamo fatto in questi 5 mesi, c'è stata una riforma della giustizia civile che rappresenta, secondo me, una vera e propria rivoluzione. Il grosso guaio per gli italiani è il ritardo della giustizia civile. Quindi la mia risposta è ci siamo già occupati di giustizia. Dunque, Letta dice, anche se in qualche modo marginale, però significativo, con la legge sulla mediazione, il governo comincia a fare suo e affrontare il problema della giustizia. Naturalmente il tema della giustizia, lo dice Letta stesso, dovrebbe essere affrontato a prescindere dai problemi di Berlusconi. È interessante sentire come anche all'interno della magistratura il problema della politicizzazione o dell'uso strumentale della giustizia si stia facendo largo tra i magistrati. L'abbiamo già sentito, ma lo risentiamo. Queste sono le parole di Ilda Boccassini, procuratore aggiunto di Milano. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dunque, parole importanti. Proviamo a riassumere i fatti. Berlusconi comunque è stato condannato per frode fiscale in Cassazione e ancora la Cassazione ha confermato la condanna della Fininvest per il lodo Mondadori. Quindi, in sostanza, le sentenze sono definitive e vanno semplicemente eseguite. Rimane però comunque il nodo irrisolto che da una parte, abbiamo visto, blocca tutto e dall'altra però anche copre tutto. Fino alla drammatica conseguenza dello scontro al Calor Bianco di ieri. Mario Secchi è buttafuoco. Scusate, sono raffreddato. La vostra opinione, Mario? Ma siamo agli ultimi bagliori di una guerra durata un ventennio. Questo è abbastanza chiaro. Non è solo un conflitto tra destra e sinistra, è anche un conflitto che si porta dietro i nodi irrisolti, come giustamente dicevi tu, Minoli, del conflitto altro e parallelo tra politica e giustizia, che nasce prima, diciamo, di Berlusconi, cioè nasce nel 92 con l'inchiesta di Mani Pulite, lo spianamento, diciamo così, dei partiti della Prima Repubblica, la sostituzione di essi con dei partiti nascenti, vedi appunto Forza Italia di allora nel 94, la Lega di Bossi, Di Pietro che comincia la sua avventura, e siamo arrivati fino ad oggi. E quindi è un nodo che viene da lontano, da molto lontano. E ognuno sta facendo la propria parte. Il fatto è proprio questo: ognuno recita fino in fondo la parte che si è scelta, e quindi la sinistra si è scelta la parte dell'anti-berlusconismo e su questa si conduce. E così la magistratura si è scelta la parte di vigilare, di punire e di supplire per quel che riguarda l'assenza della sinistra, e la fa fino in fondo. La stessa parte fino in fondo la sta interpretando il Presidente della Repubblica, e Berlusconi purtroppo per lui sta facendo proprio Berlusconi, cioè sta conducendo in solitudine un'avventura che inevitabilmente, anche per la scadenza anagrafica, non potrà che concludersi senza un lieto fine. No, ecco, ma i canoni della tragedia, devo dire tutto questo. I canoni della tragedia, naturalmente, anche se le parole della Boccassini mi sembra che aprano un ulteriore spiraglio, ma ne parleremo. La radicalizzazione, però, che potrebbe avvenire venerdì con la decadenza di Berlusconi, servirà a buttare altra benzina sul fuoco, o sarà in qualche modo la parola conclusiva almeno di questo pezzo dell'avventura? Ma certo, la decadenza non è un semplice fatto tecnico, cioè la giunta per le immunità del Senato si riunisce e prenderà una decisione che non è meramente formale, è una decisione politica, cioè stai comunque decidendo che il capo fondatore di un partito della maggioranza, dell'attuale maggioranza finché in piedi, non sarà più parlamentare. Ora, è vero che l'esecuzione di una sentenza e le sentenze vanno rispettate, eseguite, lo sappiamo tutti, però le conseguenze politiche sono anche sotto gli occhi di tutti. E siamo in una condizione in cui non c'è il soft landing, l'atterraggio morbido, ma c'è solo il crash per il paese. Questo, ecco, è forse drammatico. L'atterraggio morbido avrebbe potuto essere accettare l'idea di rinviare alla Cassazione un giudizio sulla retroattività possibile della legge Severino. Forse non avrebbe cambiato niente per Berlusconi, ma forse sarebbe stato un segno di una qualche forma di compromesso. E forse è venuto meno pure quella sana educazione che derivava dagli studi di liceo, ovvero l'amor di patria, perché nessuno in questa fase così delicata, nessuno in questo momento dove l'Italia reclama un'attenzione, una delicatezza del momento, ha saputo prendere una decisione. Faccio un esempio banale ma scioccante. È un po' come quando nelle situazioni di tensione, di terremoti, di emergenza, negli ospedali quello che prende in pugno la situazione è quello che comanda al pronto soccorso. Il medico di guardia al pronto soccorso comanda su tutto. È quello che è venuto meno adesso, è proprio un istinto di salvaguardia verso dell'intero paese. Io preferisco non usare la parola paese perché mi sembra riduttivo, perché dopo tutto siamo in Italia. E che parola vorresti usare? Non dico nazione, ma patria. Si può dire tranquillamente, è la parola che è meglio di ogni altra, perché se ci fosse l'istinto di patria come ce l'ha avuto qualcun altro nel passato, e faccio apposta l'esempio di Bettino Craxi, avrebbe avuto la responsabilità politica, così come la ebbe perfino Andreotti, che di patria ne conosceva un'altra ed era la Santa Romana Chiesa. E adesso l'istinto di patria dovrebbe dettare un'unica esigenza, quella di mettere fine a questo conflitto, perché l'interesse è innanzitutto rivolto ad un'Italia che è allo stremo. Ecco, ma in attesa di vedere come va a finire questa faccenda, proviamo a fare un bel passo indietro nel 1996, per ricordare sempre attraverso le parole di Berlusconi stesso qual era lo spirito con cui lui è sceso in campo. Sono sicuro di non essere tagliato per la politica delle chiacchiere, degli intrighi, dei trabocchetti, per quello che ho chiamato il teatrino della politica. Sono sceso in campo per cambiare il modo di fare politica, per cambiare il modo di affrontare i problemi, nel concreto e non a parole, per cambiare il paese. Ecco, voleva cambiare il paese, diceva Berlusconi nel 96, invece non è riuscito, l'abbiamo visto, neanche a fare la cosa che gli premeva di più, la riforma della giustizia. Ecco, ma come mai, avendo governato così tanto, non è riuscito a fare neanche la riforma della giustizia? È il paradosso del potere. Questo purtroppo è anche il grande paradosso di Berlusconi. È arrivato sulla scena politica cercando di importare con 20 anni di ritardo il reganismo in Italia, no? L'efficienza, meno burocrazia, meno tasse, eccetera. Beh, purtroppo il risultato politico finale, l'esito di questa grandiosa avventura dal punto di vista della narrazione, su questo non ci sono dubbi, purtroppo è negativo. Ecco, lui però nel suo DVD della settimana scorsa ha spiegato il perché, secondo lui, dal suo punto di vista, di questa incapacità di legiferare, dando la responsabilità agli alleati, Buttafuoco. E gli alleati? E che alleati? Si era alleato con la parte più importante di una tradizione, la Democrazia Cristiana, che aveva in Pier Ferdinando Casini, in Follini, che fu uno dei suoi primi ad essere bastonati nell'avventura politica del berlusconismo. Poi si alleò con quello che era diventato il Movimento Sociale, cioè la destra italiana, che diventò poi Alleanza Nazionale. Lì trovò una persona che seppe aiutarlo, e qui siamo in un ambito di storia. 20 anni fa c'era un personaggio come Pinuccio Tatarella, il cosiddetto ministro dell'armonia, il suo vice premier, che capì e intuì la necessità di aprire e di allargarsi e soprattutto di avere un'interlocuzione serena con le istituzioni. Tant'è vero che in una fase delicata di 20 anni fa anche Antonio Di Pietro stava per entrare in questa alleanza. Certo, stava per essere ministro del governo. Torneremo su questo punto, perché credo che un pochino corsi e ricorsi si ritorna allo stesso punto. Comunque allora, in quel momento, abbastanza tutti gli andavano dietro, compreso i grandi e soprattutto, anzi, grandi personaggi dello spettacolo come Raimondo Vianello, Ambrangiolini, Mike Bongiorno. Oh, ma lo sapete che domenica prossima si vota e tutti si stanno chiedendo, ma Forza Italia, Silvio Berlusconi ce la faranno? Beh, io l'ho seguito molto Silvio Berlusconi quando parlava in televisione a proposito di tutti i progetti che ha, e naturalmente ha detto tante cose molto molto belle, molto interessanti. Ma molta gente, chissà perché, vengono da me perché dicono, ma tu lo conosci da tanti anni, e mi dicono, ma Berlusconi promette tante cose, ma poi le farà? Beh, io devo dire che Berlusconi quello che promette fa. Il Padre Eterno tiene per Berlusconi, Forza Italia, tutto il coro, insomma quello là. Stalin tiene per Occhetto, ecco, e Satana, anche Satana tiene per Occhetto. Allora, se credete in questo, perché non lo proviamo? E poi tra 5 anni, visto che siamo in democrazia, che questo è un paese democratico, gli diamo un calcio nel sedere e lo rimandiamo ad Acore. Ma perché non provare? Ma perché questa cattiveria che avete? Ma siamo buoni, ma vogliamoci bene. Adesso addirittura è l'Economist, è che è un mafioso, è che è un bandito. Ma non è vero. Signori, votiamo Berlusconi, proviamolo, e se non va bene lo mandiamo a casa. Io ho la fortuna di conoscere finalmente il candidato per cui voterò. Ah? Perché ci ho lavorato insieme da parecchi anni, l'ho apprezzato, lo stimo, per cui ecco, adesso finalmente so per chi votare. E chi è? È l'ex presidente Cossiga? Ma come così? Che c'entra con l'ex presidente nostro della Fininvest? Ah, ha capito adesso? Berlusconi. Sì, ma mica sottovoce, Berlusconi, si capisce, Berlusconi, Forza Italia. Ti devo schierare? Sì, beh, io sono per Berlusconi, questo è evidente. Ah, ma non solo per Berlusconi, perché lavora alla fine, ma solo per una questione di coerenza politica. Queste erano delle voci che avete ben riconosciuto, da capo comico in un certo senso a leader politico, con lo stesso spirito della grande rappresentazione. Buttafuoco. Rappresentazione che in una fase fu anche la sintonia con gli italiani. Lui è stato veramente l'outsider per eccellenza, era l'uomo escluso dall'establishment, l'uomo che preferiva senz'altro il successo di Mike Buongiorno piuttosto che l'autorevolezza di un Umberto Eco. Lui non ha avuto mai, neppure per un istante, un momento di soggezione nei confronti delle élite. E élite in senso ampio, quindi non solo culturali, ma anche l'élite del mondo che conta, quello della finanza, quello del vero potere. Ecco, se posso dirlo, Berlusconi è stato quello che per 20 anni ha avuto la sintonia con il popolo e non ha avuto mai un momento di accordo, di sintonia, di soggezione, di sudditanza nei confronti del potere. Ma perché il potere è la sinistra e Berlusconi è il popolo. È vero, non ci sono dubbi. Ecco, Giovanni. Però il risultato è un risultato problematico. Chiamiamolo problematico. Abbastanza disastroso. Direi che, appunto, purtroppo sono i canoni narrativi della tragedia. Questo come dicevi è il punto. Prima. Segnalo la genialata a proposito di narrazione, per capire che cosa è Berlusconi, di Stalin tiene per occhetto Ambra Angiolini in quel momento. Dice quello. Sembra una cosa un po' fumettistica, no? Da comics americano, quasi ridicola. E in realtà lui in quel momento costruiva un immaginario che comunque è riuscito a permeare il paese in questo ventennio. Ecco, ma per continuare questa analisi, cioè ascoltare, provare ad ascoltare l'autoritratto che Berlusconi fa di sé, cerchiamo di capire la personalità di Silvio Berlusconi per come ce la racconta lui. Senta, ma che effetto le fa essere un caso unico al mondo? Beh, cioè, una cosa che ma io sono allenato, perché io sono stato l'unico, un caso è vero, unico col Milan, è vero, anche con le televisioni mondo, è l'unico al mondo, anche col volley. Ah sì, ecco. Sì, le televisioni sono un'altra cosa al mondo ad avere 3 reti, non 6, come diceva la scheda. Beh, insomma, ma le 2 Telepiù e l'Italia 7 mi sono state tolte dal CAF, mi ha tolto anche un bel po' di giornali, l'Espresso, la Repubblica, è rimasto qualcosa. 14 giornali regionali, non si lamenti. Il Giornale Nuovo, senta, non si lamenti. La pubblicità locale, il Giornale Nuovo la pubblicità buttato via. Areale e il 90% delle televisioni andiamo un po' con ordine, perché non mi sembra che gli manchino gli strumenti di comunicazione. Senta, il suo amico nemico Montanelli dice che lei adesso si sente un po' Churchill e un po' De Gaulle, ma il grave è che ci crede davvero. È così? Ci crede davvero? Dice una grande panzana, io credo di essere me stesso, mi basta ed avanza. Ecco, continuiamolo questo racconto della sua personalità. È sempre lui che parla nel 94. Ma è vero che lei è un gran narciso? Tutti, l'abbiamo un po' vista prima, un po' narciso, prima della trasmissione abbiamo visto si è aggiustato bene. Anche lei si aggiustava. No, ma io meno, un quarto d'ora in meno. Senta, dicono che lei è un grande seduttore, non so se è vero, ma così si dice. Ecco, che cos'è che la colpisce di più in una donna? Beh, ogni donna ha una sua personalità. Sì, ma ci sono delle donne belle che non attraggono, che non colpiscono, ci sono delle donne che non sono belle e che invece hanno un grande charme. Quindi, ma ce l'ha un modello, diciamo così, un modello di donna, una qua mi è facile rispondere perché sono stato fortunato, il mio ideale di donna è mia moglie. Questa? Sì. Senta, ma invecchiare fa paura? No, non, anche perché è un problema che non mi riguarda, sento vitalissimo, invernato, ho una grande resistenza fisica, no, non sono invernato. No, anzi, voglio dire, molto, cioè, non sono molto vigile, lavoro con tanti giovani, sono sempre circondato da giovani, quindi ho dei nessuna bambini paura di invecchiare. Molto piccoli, quindi no, è un problema che non mi ha colto. Quindi Berlusconi in qualche modo sembra un donnaiolo con le donne, giovane tra i giovani, saggio con gli anziani, nottambulo tra i nottamboli, tifoso tra i tifosi, milanista tra i milanisti, milanese con i milanesi, insomma un venditore perfetto. Sembra che Berlusconi abbia un talento speciale per le campagne elettorali, lo ha dimostrato, poi invece governare, fare le leggi, quello che è proprio la gestione, per lui sembra una cosa che in fondo lo annoia, oppure non la sa fare. Secchi. E temo che non sappia governare, perché è stato un eccezionale front runner nelle campagne elettorali. Però quando è andato a Palazzo Chigi, ahimè, si è impantanato. Ora, è anche un po' banale perfino ricordare che nel 2008 aveva una maggioranza straordinaria. E però l'ha buttata, cioè, ha rotto confini. Non è vero, come si dice, che il divorzio era, diciamo così, inevitabile. Insomma, c'era di più, si poteva mantenere questa alleanza. Vi ricordate la scena di ieri alla riunione dei parlamentari del PDL o di Forza Italia, che ancora non si è capito come si chiamino, e nel frattempo che tutti applaudivano, e mi sono ricordato di quella bellissima immagine di Enzo Sellerio, i quattro camerieri dell'Apocalisse, sembrava quella scena esattamente, c'era soltanto un ditino alzato, era quello di Cicchitto che chiedeva la parola e voleva fare come si fa in politica, cioè discutere, parlarne insieme. E lui l'ha invitato a cena. L'ha invitato a cena e mi sono ricordato del momento l'acme della prima crisi, quella con gli alleati, quando lui non capiva quella necessità di guardarsi negli occhi, di parlarsi, di presentare una discussione, e se ne uscì con una battuta che inorridì tutti. Casini all'epoca, Bossi all'epoca, Fini parlandone da vivo all'epoca, quando lui disse: raggiungetemi in Sardegna, venite con le signore. Ricordo, sì. La storia si ripete. Again, Cicchitto è l'unico che alza il ditino adesso. Vi ricordo il nostro numero del telefono, siamo a Mix24, stiamo raccontando la Berlusconedia, in qualche modo raccontata da lui stesso. Il nostro numero è l'800-24-0024, oppure mandate un sms al 349-238-6666. Mix24. Io ho molta attenzione, soprattutto in campagna elettorale, raggiungo una virtù. Vuole sentire? No, senta. Cosa sento? Senta col naso. È odore di santità. Faccio una città di 4.000 abitanti e tutti diranno: ah, non è possibile, fatta. Ne faccio una di 12.000, fatta. Ne faccio una di 18.000, fatta. Poi quando ho detto diventeremo i primi editori d'Italia, la Mondadori, arrivati. Milan diventerà la prima squadra al mondo, arrivati. Un partito, andremo al governo, 3 mesi, governo. Fatemi dare questo piccolo fatto d'orgoglio. Chi c'è in Italia che può paragonare quanto ha successi a qui presente il signor Berlusconi? Ditemelo. Sono anche il mortale, arriverò a 120 anni, ma sono ancora mortale, sono il mortale che ha avuto più processi nella storia dell'uomo. Se arriva il signor Casini, e dato che è belloccio, va in televisione, piace alle signore... Invidioso, eh? Oltre... No, non sono invidioso, sono più bello io. Abbiamo detto naturalmente, abilissimo venditore, un mago del marketing. Sono le 9:33 minuti e 58 secondi, siamo tornati in diretta a Mix24 con Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi. Ricordo il nostro numero 800-24-0024, oppure mandate un sms al 349-238-6666. Allora, stiamo raccontando Berlusconi visto da se stesso, una cosa molto curiosa, rivelatrice, l'ha raccontata Guzzanti in un suo libro, Paolo Guzzanti, e dice che quando Berlusconi ha incontrato una volta Giovanni Paolo II, riuscì a stupire il Papa assicurandogli che lui, che il Papa, poteva tranquillamente continuare il suo lavoro, visto che vendeva un prodotto di grande successo, cioè Dio. Ecco, questo Berlusconi è questo, è uno sfrontato senza limiti, sai chi? Beh, è un pezzo importante del carattere degli italiani. Su questo direi che è una condizione pacifica, direi quasi assodato storicamente. Buttafuoco? Sì, si identifica con l'Italia e però anche racconta che cos'è l'Italia. La scorsa settimana tutti abbiamo letto, commentato l'elezione della Merkel, e lì il dato che ne veniva fuori è che la Germania si è identificata nella Merkel, certo. E quindi il passaggio ulteriore è: si identifica nella Merkel, la Merkel nella Germania, la Germania si è impossessata dell'Europa, insomma una politica giganteggia in termini pesanti. Certo, in però... Italia invece è un piccolo cortile, una provincia, una ridotta, dove tu hai parlato prima, hai evocato la tragedia. Beh, sì. Avendo ancora nelle nari la polvere del teatro, ti devo dire, mi sa tanto di commedia, e l'esito della commedia è sempre quello di una irrefrenabile tristezza. Sì, l'unica cosa è che l'Italia fino, diciamo, all'inizio, diciamo, degli anni Ottanta era un paese con una grande visione, in realtà. La smarrita Beh, una visione geopolitica, una visione del suo destino, del suo anche destino. Di politica internazionale. No, su questo ci sono pochi dubbi, quindi non è che è una qualità che non abbiamo. Scusami Mario, è proprio quello, il tema della geopolitica è l'unico vero dato positivo di 20 anni di berlusconismo, perché poi magari se uno si avventura in certe discussioni o viene ridicolizzato o viene criminalizzato, eppure mi sento di dire che Berlusconi proprio in ambito geopolitico, a dispetto... Cioè Putin e Gheddafi, vuoi dire? Beh, sai che cosa significava Gheddafi? Significava un grande risparmio, un grande guadagno per gli interessi nazionali. Io penso che uno statista, uno che ha la responsabilità del governo d'Italia, abbia la necessità di maturare soltanto gli interessi d'Italia. Solo una testimonianza. Fece una conferenza a Washington con i think tank importanti e dissi: ma dov'è l'oleodotto da Roma a Washington? Mi guardarono in effetti un po' straniti. È molto interessante l'osservazione. Alfano due giorni fa però ha scritto su Facebook che la sua lealtà per Berlusconi è a prova di bomba. Poi dice che se prevarranno posizioni estremistiche una nuova Forza Italia non nascerà. Poi l'annuncio: io sono diversamente berlusconiano. Ecco, ma esiste una possibilità di essere diversamente berlusconiano, oppure sono tutti destinati a fare la fine di Fini? Perché anche con Fini, l'abbiamo un po' detto, sembrava un rapporto eterno. Invece a rivederlo adesso c'erano già tutte le stigmate della rottura. Qui a Mixer Berlusconi ha detto: i politici di professione sono un'aiattura. Ecco, lei è un politico di professione, si sente un'aiattura? No, non mi sento un'aiattura. Credo che l'Italia abbia necessità anche di un impegno politico vissuto. Cioè hanno senso i politici di professione o sì, no? Sì, certo. Cioè, la politica non può essere un compromesso, la politica deve essere la capacità di capire ciò che succede domani e di guidare la società italiana verso il domani. Allora Berlusconi è torto. Berlusconi si è improvvisato politico per riempire un vuoto ed è riuscito pienamente in questo obiettivo. Senta, sta diventando anche egli un politico in qualche modo di professione. Attraverso qualche errore? Beh, attraverso l'esperienza. Mm. Senta, ma è cambiato qualcosa tra voi? No. No. Senta, no, glielo chiedo, perché Berlusconi di lei ha sempre detto, l'abbiamo detto anche nella scheda, Fini è un amico leale. Poi però ha cominciato a dire Fini è spigoloso, insomma, qualche segnale di piccole crepe. Non accetto compromessi a meno che non sia più che convinto. Ecco, oggi la minaccia di Berlusconi nei confronti dei dissidenti è che se lo tradiranno faranno la stessa fine di Fini, è stato detto e scritto. Ecco, ma il diversamente berlusconiano è già finito oppure non è proprio possibile? Buttafuoco. In quel contesto lì non è proprio possibile, perché se il partito è Berlusconi è ovvio che comanda Berlusconi, ed è ovvio altrettanto quando, per esempio, durante l'ultima campagna elettorale lui gli fece dei discorsi legati alla mobilia, cioè alle cose concrete. Non gli diede manco i soldi per fare i manifesti, se ce lo ricordiamo questo dettaglio. Significa che lì il diversamente berlusconiano è sempre fuori, bisogna viverselo fuori da quel contesto, e fuori da quel contesto si può finire malissimo, come finì malissimo Fini, il quale però aveva un dettaglio, aveva la famosa casa di Monte Carlo e quindi non poteva accampare, parlandone da vivo, non poteva accampare, diciamo, dei privilegi etici. Allo stesso modo quello che succederà dopo, vediamo, in Italia ci sono dei personaggi che, come si suol dire, avendo il biglietto della lotteria non lo sanno vincere. Successe all'epoca per Mario Segni, successe per Fini, e questa dovrebbe essere una lezione che dovrebbero capire loro, perché se fosse stato diverso, ma col se non possiamo immaginare la politica, in questo momento di grave crisi del centrodestra, Fini avrebbe avuto una carta da giocare, adesso è soltanto la pensione da consumare. Mario. Ma sarò secco. Di Berlusconi c'è un pre, un durante e ci sarà un post, non un diversamente. Ecco. Però, secondo lui, forse oggi siamo di nuovo allo stesso punto di partenza. Sentite quello che diceva alla partenza, al lancio, al momento del lancio di Forza Italia, nel 94. Intanto ritengo che quando si lancia un prodotto il piano è stato fatto da un'agenzia che ha fatto questo piano con le stesse regole con cui lancia un nuovo marchio. Ed essendo un marchio non conosciuto, essendo un marchio che si affacciava per la prima volta sulla scena della politica, è stato necessario far avvertire tutti, con quindi una pressione pubblicitaria notevole nei primi giorni, che era venuto qualcosa di nuovo. Dunque la politica assolutamente come marketing, applicazione delle strategie del mercato proprio dei prodotti, questo valeva per Forza Italia allora, oggi questo problema di rilanciare il marchio potrebbe valere oltre che per la stessa Forza Italia che è stata riesumata, anche per il cognome Berlusconi, perché il problema del cognome da mettere nei fatti, come dire, elettorali, nei cartelloni elettorali, esiste. Secchi. Ma mi pare pacifico anche in questo caso che l'eccezionalità della storia berlusconiana impone quasi la successione dinastica, perché c'è un problema vero, il cosiddetto brand, il marchio deve essere ancora, per sopravvivere a questo punto, Berlusconi, non altro. E quindi Marina? Marina, Barbara, è un bel dilemma, perché l'intervista di Barbara Ballarò qualche giorno fa ha aperto un possibile altro scenario. Era interessante Cacciari, che diceva che... Che è stato il suo maestro in qualche modo, mi pare, no? Esattamente, è stato suo maestro, la conosce, e diceva, ma più che Marina io vedrei bene Barbara. Quindi qua si apre il dibattito politologico. Ecco, Barbara in un'intervista aveva anche detto, io vedo bene Renzi. Quindi insomma potrebbe essere complicato. Tu cosa dici? È interscambiabile, anche perché Renzi è sempre in quella vigna zappa, che è quella del populismo più o meno glamour, ma comunque sempre populismo è. Beh, viene il dalla ruota della fortuna. Viene dalla ruota della fortuna. Ma il marchio è il cognome. E se posso ragionare con i termini della Prima Repubblica, di quando c'era la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, mi ricorda un po' la strategia del PC, che faceva di tutto per avere l'emblema del simbolo nella scheda elettorale, il primo in assoluto, perché era facile da individuare per la grande massa degli elettori proletari, braccianti, eccetera. E io temo che comunque, con tutta la buona volontà, questa scelta dinastica abbia delle controindicazioni, perché Marina Berlusconi è un Berlusconi senza sorriso, quindi senza carisma, e sarebbe difficile da accendere. Barbara, oltretutto, piace anche a Roberta De Monticelli, che fece pure una lettera. Questa è un aggravante. Sì, cercò di fare dei distinguo. Ma la sostanza è sempre affidata ad un principio che in politica non regge, e cioè che la politica è la città della discussione, del confronto e dello scontro. E quindi non potrà mai essere padronale. Se faccio appello ad una vena viva, che è quella di un sentimento sanamente di destra e popolare, mi ricordo al primo congresso del Movimento Sociale Italiano, quando a un certo punto si accendeva la discussione e si prendevano a legnate, e la morale che Filippo Anfuso, buonanima, gentiluomo, disse qual è? Non hanno niente a che spartirsi e si spartiscono le legnate. E quindi nessuna famiglia. Nessuna famiglia, per carità, nessuna. Vorrei sommessamente solo segnalare al compagno buttafuoco a questo punto che in realtà nella nascente Forza Italia si prendono a legnate, ma continua a decidere il capo. Dopo la pubblicità, dopo la pubblicità torneremo qui in diretta per commentare che cosa bolle in pentola, un po' l'abbiamo detto, in Italia e nel mondo, sempre con Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi. Ricordo che il nostro numero di telefono è 800 2400, se invece volete mandare gli sms il numero è 349 238 6666. Per sapere che cosa volete aggiungere anche voi nella nostra pentola. Mix 24. Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo, sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg, il 3% dai 6 ai 7 kg, il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiamo. Secondo me, per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi Mario, a una figura. Mario, perché hai scelto questo contributo della canzone di Gaber per rientrare? È perché la sedia è la metafora del paese. Se ne parla, ma nessuno la sposta. È incredibile come questo testo di Gaber, questo monologo straordinario, sia attuale. Siamo arrivati a Cosa bolle in pentola. Sigla. Eccoci a Cosa bolle in pentola. Mario, che cosa bolle in pentola oggi? Siamo un po' lunghi, quindi dovremmo essere un po' più sintetici. Sarò un flash. Lavoro questo sconosciuto intanto, perché Eurostat oggi dà i dati sulla disoccupazione in Europa. Il dato medio atteso è 12,1%, vediamo come va l'Italia, sarà dura. Sono i giorni dell'IVA, inutile dirlo, è entrato in vigore l'aumento. Tra l'altro consiglio per gli acquisti sul Sole 24 Ore, oggi c'è uno speciale molto interessante di istruzioni per l'uso. Il Wall Street Journal definisce la nostra situazione così: l'Italia è di nuovo al caos politico, e questa per gli investitori non è una sorpresa, quindi è tutto dire, è molto interessante. Sono abituati a investire in un paese che è al caos, oppure questa avrà delle conseguenze gravi? Beh, può avere delle conseguenze gravi. La borsa sta aspettando, in questo momento è abbastanza tranquilla, ma solo perché il governo non è ancora caduto. Abbiamo una crisi stranissima, molto virtuale. Mentre in America il governo ha fatto shutdown, cioè ha chiuso perché non c'è l'accordo sul bilancio, non accadeva dal 95, questo significa che qualche milione di dipendenti federali non avrà lo stipendio per ora, finché non si trova l'accordo. Shinzo Abe, sempre economia interessante, certo, globale, certo. Il premier giapponese alza le tasse e continua la politica di stimoli monetari, e questa è interessante perché sta funzionando per ora, con ombre e luci, ma funziona. Dovrebbe esserci adesso in mattinata. Noi la possibilità di battere moneta non l'abbiamo. E quindi, no, beh, sai, no. Abbiamo perso sovranità su questo punto. Ma secondo te è un bene o un male che abbiamo perso questa sovranità? L'architettura europea mostra la corda, bisogna dire la verità, però ci sono degli aspetti pratici. Pensate ai mutui fatti 20 anni fa, a tassi molto bassi con i quali molti italiani hanno comprato la casa. E possono per esempio continuare a pagare la rata. E possono continuare. Certo, il rovescio della medaglia è che siamo più poveri, la nostra capacità d'acquisto è diminuita e non abbiamo, ripeto, la sovranità per fare, che ne so, l'esportazione competitiva, no? Le svalutazioni. Malgrado no, l'Italia abbia il quarto deposito aurifero al mondo, malgrado questo. Guarda che nel Cosa bolle in pentola, sì, visto che hai evocato l'oro, c'è una cosa fantastica sulla ricchezza dell'India, perché i templi indiani pare che abbiano 2000 tonnellate d'oro, la metà di quanto è contenuto a Fort Knox, e il valore è 84 miliardi di dollari. In tempi di crisi il governo indiano potrebbe pure metterci le mani, infatti i templi non dichiarano la consistenza delle loro ricchezze. Ti segnalo che ci sarà un'informativa oggi del Presidente del Consiglio sulla cessione di Telecom a Telefonica in Parlamento. Ecco, su questo punto Telecom, abbiamo perso un altro pezzo di sovranità perdendo Telecom, perché in fondo le telecomunicazioni sono gli eserciti di oggi. Se noi perdiamo il controllo delle telecomunicazioni, perdiamo un pochino il nostro esercito moderno. Questo è vero, però il rovescio della medaglia anche qui è che se arrivano più investimenti, le tariffe si abbassano, a me interessa poco di chi è. È un bene per gli italiani, l'apertura dei capitali alla fine, mi segui? Questa è una visione molto liberale, se vuoi, però è la realtà. Che si fa? Vabbè, cioè, il nostro esercito lo comanderà un generale giapponese, non importa. L'importante è che vinca. Magari fosse giapponese. L'importante è che vinca. Ti segnalo, questa, riprendendo la tua intervista di ieri su Moro, che la Commissione Affari Costituzionali sta lavorando sulla commissione d'inchiesta per ricostruire che cosa è successo nei 55 giorni del sequestro. Quindi è una cosa molto interessante. Ecco, una notizia che forse qualcuno sa è stata acquisita dalla procura di di Roma, l'intervista che abbiamo fatto ieri a Steve Piceniche, perché chi sta indagando su questo a supporto della nuova commissione che è stata istituita da tutti i gruppi parlamentari unificati, forse cerca lì qualcosa che la prima commissione non era riuscita a trovare. Sì, poi cose serie, alte, nobili, teologiche. Il Papa Conio, l'ho definito io un po' scherzando, cioè il colloquio di stamattina tra Eugenio Scalfari e Papa Francesco, inutile dirlo, su Repubblica. Vabbè, è un confronto sui temi della fede, ancora una volta. Anche dell'umanità, sì, lato, beh, certo, sì. Dell'opera dell'uomo sulla terra, no? Sì. Mi chiedo, io ho delle riserve sul fatto che si faccia questo dibattito pubblico del Papa sui giornali. Io credo che questo sia un approccio che corrisponde a una visione completamente nuova del ruolo della Chiesa che Papa Francesco ha, che sta sviluppando. Cioè è cambiata un'epoca, è un cambio completo di epoca. Poi quanto riuscirà a operare in questa direzione lo vedremo, però certamente è un'energia vitale che può venire solo da una chiesa giovane come la chiesa che l'ha prodotto. Tu conosci Marziano a Roma? Sì. Il romanzo di Flaiano, certo. Il racconto di Flaiano. È bellissimo, c'è un appunto sull'agenda. 5 novembre, il Marziano è stato ricevuto dal Papa, né dà notizia all'Osservatore Romano, senza tuttavia pubblicare fotografie nella sua rubrica Nostre informazioni. In questa rubrica, come è noto, vengono segnati per ordine di importanza i nomi delle persone che il Santo Padre ha consentito a ricevere in udienza privata. Il Marziano è tra gli ultimi, è così nominato, il signor Kunt di Marte. Anche il Marziano arrivava per ultimo, col Papa, e in questa cosa di Flaiano, geniale, c'è, come dire, la distanza, no? Il sacro che rappresenta il Papa. Ecco, non vorrei che tutto questo fosse, come dire, banalizzato a uno scarto tipografico. Ma non esiste certamente un unico modo di vedere il sacro. Credo che Papa Francesco ce ne sta insegnando un altro che dovrebbe arrivare in un mondo completamente laicizzato a creare un ponte con delle culture diverse. Questo penso che sia un pochino il senso della sua operazione. Siamo in chiusura, l'appuntamento, mi dispiace per le telefonate, purtroppo oggi ci siamo un po' allungati. Mix 24, la storia. Mai era successo una cosa del genere, Camone spara, uccide, eccetera, ma mai un giornalista. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di Giancarlo Siani, 26 anni, giornalista precario del Mattino. Il 23 settembre dell'85 a Napoli tre killer senza volto lo uccidono mentre tornava a casa guidando la sua Meari. Un ragazzo mite e simpatico a tutti, che sperava in un'assunzione nel quotidiano di Napoli e che aveva il giornalismo nel sangue, in un territorio, la Campania, che negli anni Ottanta era dominata dalla Camorra e proprio in quegli anni consolida i suoi rapporti con la politica attraverso il sistema degli appalti pubblici. Siani ha 20 anni e le idee chiare, come ha ricostruito Marco Risi nel suo film del 2009 Fort Apache. Le notizie, i scoop, sono la rottura dei cazzi e fanno male. Fanno male assai. Io voglio fare il giornalista. E lo sapevo che mi dicevi questo. E magari vuoi fare pure il giornalista, no? No, perché anche qua ci stanno due categorie. Ci stanno i giornalisti e i giornalisti impiegati. Siani comincia giovanissimo, a Napoli, a Castellammare, scarpinando tra i meandri di Torre Annunziata, affrugato tra i fatti di cronaca e indagato sulla Camorra. Eppure il suo omicidio è un rebus, un giallo apparentemente senza spiegazioni, come raccontano ai nostri microfoni i suoi amici e colleghi Francesco Romanetti e Daniela Limoncelli. Nel clima comprensibile di quella sera cominciamo a fare delle ipotesi fra di noi. E non avevi chiaro neanche il motivo fino in fondo in quel momento. Giancarlo lavorava da 3 mesi alla cronaca di Napoli, ma la maggior parte del suo lavoro, anche negli anni precedenti, lo aveva svolto a Torre Annunziata. Una città dove la Camorra era ovunque. Aveva raccontato la realtà sociale difficile di